Durante la pandemia la Commissione europea partecipa attivamente alle negoziazioni per l'acquisto dei vaccini per tutta Europa e tra l'altro è bene dire in questo momento che questo modello viene riproposto da Ursula von der Leyen in futuro anche per altri acquisti congiunti, per esempio quello di armi e sistemi militari. Quindi il sistema è, c'è in teoria un board negoziale che coinvolge anche gli Stati membri, tutto è molto riservato. Durante la pandemia gli eurodeputati giornalisti come me avevano denunciato la quasi totale mancanza di trasparenza su queste procedure, addirittura gli eurodeputati potevano solo in una camera oscura sbirciare per pochi secondi solo alcune parti di questi contratti e la Presidente della Commissione europea ha gestito questi negoziati in un modo molto accentrato. Questo sistema è stato anche poi rilevato dalla Corte dei Conti europea. A un certo punto viene fuori che questo accentramento ha addirittura assunto delle forme un po' personalistiche, perché pare che durante una delle fasi delicate di rinegoziazione dei contratti con Pfizer addirittura Ursula von der Leyen abbia concordato alcuni aspetti per messaggini privati con l'amministratore delegato di Pfizer. Allora, che ci fosse un rapporto privilegiato tra la Presidente e Pfizer lo si poteva intuire dalle sue stesse dichiarazioni, perché in particolare dopo che c'è stata una specie di crisi diplomatica con AstraZeneca, in ogni occasione pubblica Ursula von der Leyen andava dicendo che Pfizer era un modello di affidabilità, addirittura si presentava alle inaugurazioni degli stabilimenti, agli eventi di Pfizer, quindi come dire, aveva fatto da sponsor, era un atteggiamento già un po' inusuale per una rappresentante delle istituzioni. Ma quando il New York Times addirittura solleva l'attenzione globale su questo scambio di messaggini, lo scandalo esplode, deflagra a tutti gli effetti. E che cosa succede? Che prima di tutto la difensora civica dell'Unione Europea, Emily O'Reilly, avvia un'indagine e chiede questi messaggini. La Commissione dice i messaggini sono comunicazioni di natura effimera, noi non siamo tenuti a conservarli. Non è così, ovviamente, non è così. E non è la prima volta che avviene una distruzione di messaggini, perché quando era ministro della difesa in Germania, anche all'epoca Ursula von der Leyen fu toccata da uno scandalo, il suo cellulare fu ritrovato completamente ripulito. Ad ogni modo io ho parlato più di un anno fa con Emily O'Reilly, che mi ha detto che addirittura la Commissione non ha nemmeno confermato l'esistenza di questi messaggi. Dopodiché O'Reilly ha chiuso la sua indagine accusando la Commissione di malgoverno. La Corte dei Conti intanto ha parlato di questa cattiva gestione dei negoziati, opaca, accentrata e così via. Rimaneva una variabile, la procura, perché finora abbiamo parlato di aspetti amministrativi, ma ovviamente c'è una questione penale in tutta questa vicenda e si sapeva che la procura europea era sul dossier, diciamo così. Però ci chiedevamo, ma qui ci sono le elezioni europee a breve, possiamo mai rimanere col dubbio, no? Forse sarebbe il caso di capire come sta la questione. E ovviamente tanti cronisti si sono fatti la stessa domanda, sono andati a stuzzicare le procure, c'era in particolare la procura di Liegi che è solleticata da un lobbista belga e addirittura anche da Orban che si era associato a questa iniziativa legale, stava indagando e però la procura europea ha preso in carico questa indagine e abbiamo adesso più conferme paraufficiali, cioè che filtrano sul fatto che la procura europea stia indagando proprio su von der Leyen, con un'indagine che è su corruzione, ingerenze, quindi un'indagine piuttosto pesante. Perché è venuto fuori poi lo scandalo? Perché c'erano due variabili da negoziare, una era il numero delle dosi e sappiamo dal numero di dosi che è andato poi distrutto che effettivamente è stato ordinato un surplus di dosi. L'altra variabile importante era il prezzo. Allora io già nell'aprile del 2021, quando von der Leyen annunciò che avrebbe siglato la cosiddetta nuova generazione di contratti, denunciavo il fatto che appunto Pfizer poteva contare su prezzi più alti. Ricordiamo sempre che c'era stata grande opacità, cioè anche di fronte agli eurodeputati che si occupavano di bilancio, questioni budgetarie, non c'era mai stata trasparenza sui prezzi, ma noi avevamo scoperto che dal nuovo contratto con Pfizer addirittura una dose sarebbe costata il 25% in più. Dietro c'era tutta una strategia di Big Pharma che puntava, una volta usciti dalla stretta emergenza, a far lievitare i prezzi. E quindi perché noi adesso ci chiediamo se ci sono stati rapporti improvvisi? Proprio perché spese coi soldi dei contribuenti europei, chi doveva presidiare, tutelare i nostri interessi, ha ceduto alle filiere di Big Pharma pagando prezzi più alti, comprando numeri spropositati di dosi. Ovviamente c'è anche un effetto concreto sui cittadini ed è anche per questo che la Corte dei Conti aveva dovuto vigilare sul caso, che poi questo atteggiamento, diciamo, che privilegiava alcune grandi multinazionali aveva anche un suo rovescio, che era quello di ostacolare l'accesso globale alle cure. C'era il cosiddetto TRIPS waiver, cioè l'ipotesi di liberare i brevetti, perché ci siamo trovati a un certo punto della storia della pandemia con i paesi occidentali che avevano sempre più dosi e il sud globale che non ne aveva, e Bruxelles ha attivamente boicottato l'equo accesso alle cure proprio per proteggere i, diciamo, chiamiamoli diritti proprietari delle grandi imprese come Pfizer. E quindi questi temi ci sono, però chi li usa adesso? Per esempio, noi sappiamo che il presidente francese Emmanuel Macron sta un po' tirando la corda sul nome di von der Leyen perché vuole negoziare al rialzo. Sappiamo che sullo sfondo c'è il nome di Draghi, sappiamo che c'è una parte del PPE, la famiglia politica di Ursula von der Leyen, che la sta strattonando, non ne ha nemmeno votato la nomina. Lei è stata confermata candidata alla presidenza della Commissione con una soglia di voti piuttosto bassa, di solito in questi casi si ha l'unanimità. E quindi, diciamo, questo argomento, che è legittimissimo, della mancanza di trasparenza sugli acquisti dei vaccini, potrebbe però essere utilizzato non necessariamente ovviamente per suggerire dei nomi che hanno un altro stile di governo, ecco.